per la prima volta a Firenze, all'Alias. È doveroso a mister Andrea Doria un applauso! Meglio conosciuto come Mr. Vucci Vec, colui che ha fatto ballare l'intero pianeta. You monitor the height. You're adjusting slightly, knowing that you might. Lining up against the wall. Then you won't fall. At the nervous center, it's not threatening at all. Andrea Doria, DJ at War. È la musica che si sintetizza in una parola: Fahrenheit.music.com. Semplicemente avanguardia. Avanguardia. Dove gli altri molte volte non riescono ad arrivare. Avanguardia. Andrea Doria e Luca Pechino. 22 gennaio. you pray. I love you. beat. Area of the dance floor. Dead lights falling off your ass. I don't need this shit. You better get up and get on it. And you better not quit. tried and tried and tried, but patience to me and time have lied. What a waste when the beat's not in your face. I was about to get down, then something happened to the sound, as if the floor was snatched from up under my feet. My soul began to float with the beat. I was about to get down, then something happened to the sound, as if the floor was snatched from under my feet. My soul began to float with the beat, with the beat, beat, with the beat. Funny, just like Michael's monkey, ha, I'm a money monkey, honey. I'm a money monkey, honey. Love in a high seat, give it up and give it up and give it to me. Ha, ha, yeah. time. Get to know your mind. Wanna reach the sun. Gonna move the earth. I will fight the time. Get to know your mind. Memories behind. I kept the love inside. When I touch your lips with my fingertips. Wanna reach the sun. Wanna reach the sun. Wanna reach the sun. Wanna reach the sun. We'll be right back. Mention KDLM. Computer CDLM. And picture of KDLM. Musica più musica, è la musica del 22 gennaio. Yeah guys. Un saluto ai volliti del letto. Un saluto al Czech di Svezia. Un saluto all'Aria Firenze. Ragazzi, glielo facciamo un applauso ad Andrea Doria. Il 22 gennaio la musica elettronica. Questa notte abbiamo anche il creatini. Car, fine, fine, fine, fine, night, Un saluto agli irriducibili. La Toscana ballerina. People, welcome. Andrea Doria. Super Fire Night. One night, one beautiful night. One beautiful night. Ovviamente tutto questo rientra in un progetto a lungo termine. Evolvere la musica, farla diventare avanguardista. Andrea Doria e Mario Pio. You look so good, you look so fine. In the night, cruising fast in your racer car. In the night, you look so good, you look so fine. In the night, cruising fast in your racer car. Yes. In the night, you look so good, you look so fine. Davis. C'è nessuno che fa tre mani ad Andrea Doria, alias! Qualcuno alza le mani al cielo, alias! Siamo o non siamo la musica! Luca Pechino, Andrea Doria, Massimo Cominotto e Mario Più! Il 22 gennaio! Ci sarebbe bene solo una cosa, ragazzi. dedicato alla console. Ognuno di voi un applauso ad Andrea Doria. Chiarni e Simona della Rubida, un saluto a tutti coloro che questa notte hanno voglia di ballare. Alias un saluto ai ragazzi di Genova. And a special Mr. Bucci back. Dopo il primo giacchetto rubato, aveva voglia di concedermi una seconda chance. Luca Pechino e Andrea Doria, Fahrenheit, Special Night. Ci vogliono le mani al cielo, alias. C'è nessuno che alza le mani per la console. Più tardi con noi ci sarà un certo Mario Più. Se qualcuno batta le mani a tempo, alias. Allinea i battiti al tuo battito cardiaco. Andrea Doria, 22 gennaio. È la prima volta che viene a Firenze. Glielo facciamo un applauso di benvenuto? All the DJs. Lui non ci conosce. Noi bisogna farci riconoscere. Lui non lo sa. Lui non lo sa. Di cosa siamo capaci? Lui non lo sa, o se lo immagina, oppure lo sa, quello che noi si può fare. Vediamo un po'. Ovviamente diamo il benvenuto a Stefania, che dopo circa 2 anni e mezzo è tornata in discoteca. Danielino in console, grazie. Danielino urgentemente in console, grazie. Cristina di Luca. I have it. Vieni più vicino. Vieni più vicino, vicino. C'è ancora posto. Gli amici di Casola. È il grande Andrea Doria. Lui non lo sa che noi, quando ci sono queste pause, facciamo un applauso alla console, grazie. Andrea Doria, thank you very much, DJ. In occasione del primo appuntamento Fahrenheit Official Night alias. C'è nessuno che alza le mani al cielo. Tutte le mani al cielo. Ringraziamento anche allo Spielberg. Yeah. Ai ai ai. Danielino in console. Benvenuto Goitek, gli amici di Chianni. E tra qualche minuto alla console dell'Alias con lui che può raccontarvi molte cose, perché ha girato tutto il globo terrestre. Massimo, happy birthday. Un saluto a Davy, il piccolo chimico, Sarzana. Gennaio 2005. Gli amici di Firenze dove sono? Gli amici di Genova, quelli di Sarzana, di Spezia, Pisa, Livorno. È la Toscana ballerina. People love to dream. People love to dream. E dimentico quelli di Chianni, quelli di Luca. People love to dream. Alghero. People love to dream. La Sardegna. Sicilia! Gli amici di Volterra, in particolare Matteo. Monte Murlo, Prato. San Piero assieme, Mucello. Rufina. Si fa prima dire ciao Italia. Alle 2:35 alla console dell'Alias fosse uno dei produttori più importanti che l'Italia ha e avrà nei prossimi anni. Lui è l'autore di Pucci Back, Pucci Back. Lui si chiama Andrea Doria. Ma che musica! Luca Pechino, Andrea Doria, DJ! Gli amici di Alghero, Sardegna. Un saluto speciale a Mr. Mairan. Legnaia, welcome. Gli amici di Legnaia volevano una discoteca al Labirinto, dalla quale non si possa mai uscire. C'è nessuno che batte le mani, alias. Mary, welcome, DJs. Sky, DJ, at war. dice, vai. E fai eso. Siamo quasi arrivati alle 3 del mattino. Siamo quasi arrivati alle 3 del mattino. Manca soltanto uno all'appello. Mi sembra si chiami Mario Kio. Fahrenheit. Fahrenheit. Fahrenheit. Cartellino giallo a Danielino. Ragazzi, vi volevo chiedere una cosa. Siamo al cambio in console di questa notte del 22 gennaio. Quando mancano 14 minuti alle 3 del mattino. Innanzitutto volevo chiedervi un applauso per l'ospite Andrea Doria. Se avesse la voce vi ringrazierebbe. E adesso il momento tanto atteso. Dopo Massimo Cominotto, dopo il grande Andrea Doria, siamo arrivati all'ultimo cambio in console. Se qualcuno riempie i posti liberi davanti alla console, perché questo è l'emblema della serata. È il senso della serata. È la svolta della serata. Allora, senza che io ve lo dica, guardate chi è arrivato in console. Un applauso a Mario Più! Se qualcuno alza le mani al cielo, è suonata la sveglia, alias è arrivato il padrone di casa! Translate. isolation. It's not you, it's the E talking. I'm not sure which part I'm playing. Gliele battiamo le mani a tempo a Mario Fiu! Lo stesso del Fahrenheit One Night. Worldwide vuol dire che ha girato il mondo. Vieni più vicino alla console, vieni. Vieni, vieni, vieni. C'è Mario, Mario più! Talking, I'm not sure which part I'm playing. E Wiggies, o the DJ at work, Mario Piu! Le mani al cielo! Questa è la musica 100% Fahrenheit! Viaggio all'interno della musica. Kane, la senti la musica che ti scolpisce il corpo? C'è nessuno che batte le mani alla console. Saluto particolare a Mr. Francesco Simpson. Un saluto agli amici di Siena Ballerina. È una produzione Fahrenheit. Mario Piu! Gli amici di Empoli, Perignano. Smile all the time. Mascalzone. Gli amici di Salzana. Un saluto agli amici della Patchwork Place. Time to get high, but even as my my heartbeat screams out loud. Sunlight breaks like glass in my eyes. No, I don't wanna come back down from this cloud. It's taken me all this time to get high. But even as my heartbeat screams out loud, sunlight breaks like glass in my eyes. Se vogliono le mani al cielo, Arias! Tutte le mani al cielo! È Mario, Mario, Mario! E la console mettemsi così. Love you, everybody. Una dettagliata relazione da parte di Vanni. Un resoconto della serata. È iniziata alle 24 in punto, suonava massimo come notte e poi è arrivato Andrea Doria e alle 3 del mattino per la gioia del popolo Alias è arrivato Mario Più! Joyce. Volevo ringraziare coloro che erano in prima fila, coloro che battevano le mani a Mario Pio. Valentina, sei una cyber. Nata da un esperimento nucleare. Maddalena, l'hai fatta la spesa? Maddalena, lasciala stare, Maddalena. Maddalena, lo sapevi che Maddalena era innamorata di Mario Pio? Come stai? Mario, Mario, Mario! Un saluto da parte di Jessica, la prima volta è venuta apposta per Mario Pio. Ovviamente questa notte è dedicata anche a Ginevra, che è l'unica che manca della famiglia. Mario Pio e Luca Vecchino. Danielino in corso di lavorazione. Un saluto a Il Ricca. Da Mattia G. Gli amici del Chais. Maddalena. Maddalena, ma non lo sai che Mario è sposato? È stata persa una patente di circolazione di Gennari Maria Vittoria. Chi l'avesse smarrita è in console. Grazie. sai. Volevo sapere chi voleva fare un applauso a Mario Più. Viene in mente la fortezza da basso del 7 dicembre con questo disco, eh? Alla fortezza da basso la gente alzava le mani al cielo! Le mani al cielo! Mario, Mario, Mario! La grande notte Fahrenheit, ne sentirete parlare in tutto il mondo. Ne sentirete parlare da molta gente. Dove sono le mani al cielo per Mario Più? Salutiamo Massimo Cominotto. Yeah. ragazzi. L'alias è nato come un sogno e come ogni sogno si è realizzato. I put your pretty dress on. Questa notte il sogno si è realizzato grazie a Mario Pio. È il battesimo della sua nuova creatura. Stefanina all'ingresso, grazie. Stefanina all'ingresso. We'll be right back. saluto gli amici di Dico Mano, che prima di dire mamma hanno detto Mario. Il 22 gennaio 2005. Volevo dedicare questo disco a Legnaia e San Giusto. Te lo ricordi come fa Arias? Super DJ, Super Mario, Mario, Mario. Musica che ti fa muovere, che ti entra nel cervello. La musica che ti fa ballare. Fahrenheit, beautiful night. Alla console dell'Arias, Mr. Mario Pew. Mario Pew. Ci vuole un applauso alla console. Violeta. On DJ on stage. Evening, everybody. Grande musica elettronica. Il 22 gennaio. Mario. Fahrenheit ti deve entrare nel tuo cervello. Fahrenheit. Fahrenheit. È il nuovo stile della musica.